Abbiamo notizie di Pierpaolo? No. Non solo per lui che stia bene, non è che io patisco se non mi registrate, quindi anzi meglio. Ma proporrei di leggere, di introdurre questa giornata con la lettura del Salmo 96, che è uno dei salmi regali. Allora, tutto l'universo loda il suo re. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, abitanti del mondo. Cantate e benedite il Signore. Ogni giorno annunziate, è Lui che ci salva. Raccontate la sua gloria a tutte le nazioni, a tutti i popoli narrate le sue imprese. Grande è il Signore e degno di lode, più terribile di tutti gli dei. Tutti gli altri dei sono un nulla. Il Signore ha fatto l'universo. Attorno a Lui splendore e maestà, nel suo santuario potenza e bellezza. Rendete al Signore, popoli del mondo, rendete al Signore gloria e potenza, rendete a Lui la gloria che Gli spetta. Entrate con offerte nel suo tempio, adoratelo quando appare nella sua santità, tremate davanti a Lui, abitanti del mondo. Dite a tutti, il Signore regna, giudica i popoli con giustizia, rende stabile il mondo che non sarà mai scosso. Si rallegrino i cieli, esulti la terra, frema il mare vasto e fecondo, sia in festa tutta la campagna, danzino di gioia gli alberi del bosco, davanti al Signore che viene a governare la terra. Governerà il mondo con giustizia e tratterà i popoli con equità. Amen. Ecco, la seconda giornata, per approfondire il tema che abbiamo scelto quest'anno, il regno di Dio oggi, abbiamo chiesto ai relatori e alle relatrici di aiutarci a capire il senso di questa espressione, il regno di Dio oggi, che cosa vuol dire per noi, e abbiamo lasciato loro estrema libertà. Quindi Angelo la volta scorsa ha fatto una panoramica su questo concetto Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, Giampiero ha deciso di intitolare questa sua comunicazione Un percorso nel Vangelo per ridare contenuto all'espressione Venga il tuo regno. Oggi pomeriggio Monica Bona, che è una teologa monregalese, docente di teologia morale a Fossano, il regno che ci chiama, che è un'espressione della Evangelii Gaudium di Papa Francesco, un percorso tra l'iniziativa di Dio in Cristo e l'esperienza effettiva dell'uomo tra grazia e cultura. Quindi ci organizziamo come sempre, parla fin tanto che ritieni che l'attenzione regge, poi facciamo un piccolo break per il caffè, riprendiamo e concludiamo verso la mezza, l'una meno qualche cosa, perché oggi poi alle 14 ci dovrebbe essere la relazione di Monica. Concludiamo con la celebrazione dell'Eucaristia, con la lettura del passo integrale del Vangelo di Luca, e come preghiera dei fedeli io vi propongo di leggere una bella preghiera che Papa Francesco ha fatto in occasione della Via Crucis del 2016, sempre delle preghiere molto molto belle. Dopodiché si conclude come al solito. Qui la celebrazione ovviamente la facciamo qui. Prego, Giampiero. Bene, sapete già l'argomento, quindi la mia intenzione è quella di provare a proporre qualche spunto di riflessione sulla parola Venga il tuo regno della preghiera del Padre Nostro. Ho cercato spunti da più parti, poi la dispensa magari ve la farà arrivare. In realtà ho preso un sacco di materiale, quindi ci sono anche commenti dei padri della Chiesa, di Origene, di Gregorio da Nissa, qualcosa di più recente, di Lutero, e di padre Gasparino e qualcun altro, poi, che magari non riusciremo a leggere, ma siccome li ho presi, e quindi li potete leggere tranquillamente, sono interessanti perché vanno appunto dal 300 dopo Cristo fino a padre Andrea, che è di questo, insomma, è morto 10 anni fa neanche, e quindi tempi diversi, commenti diversi, in contesti diversi, però appunto per provare a arricchire un po' di contenuto questa parola, perché sono partito un po' dalla domanda: quando io dico venga il tuo regno, ma cosa ho nella mia testa? Non so, forse fondamentalmente credo niente, ormai sono abituato a ripetere questa preghiera più volte al giorno, per chi di noi fa magari la preghiera di Vespri, Lodi, la Chiesa lo inserisce lì 2 volte al giorno, magari qualcun altro va a messa e quindi lo dice ancora una terza volta, soprattutto poi se durante l'Eucaristia il rischio è di dirlo proprio così, anche con tempi diversi, senza accordo, quindi proprio anche un po' scordati fra di noi. E la domanda è un po': che cosa pensiamo quando diciamo venga il tuo regno? E allora ho provato a fare un percorso un po' di esegesi, poi un commento biblico di Maggioni, qualcosa anche di Maggi, quindi ho mischiato un po' tutto insieme, probabilmente chi è abituato, che conosce già gli autori, li riconosce mentre comunque, o li troverete poi scritti. Non sarò così fluente come Angelo la volta scorsa, che parlava senza avere niente davanti, io ho bisogno del supporto, ho provato a leggerlo più volte, ma proprio memorizzare non ce la faccio perché è troppo lungo, quindi abbiate pazienza se guardo, leggo, insomma mi appoggio un po' sulla tecnologia. Comincerei proprio dal guardare dove è collocato la richiesta era anche quella di parlare del Padre Nostro, del Regno di Dio, collegato in modo particolare col Vangelo di Luca, che è il Vangelo di quest'anno. Quindi parto con alcuni spunti di esegesi, per usare una parola un po' difficile, sul testo di Luca, del Padre Nostro, però preso appunto dal Vangelo di Luca. Lo troviamo al capitolo 11, magari lo leggo, va, proprio il pezzettino lì all'inizio. Uso il computer anche perché lì posso ingrandire, invece il libro non lo posso più ingrandire e non ho ancora voglia di comprare gli occhiali. Ma proprio l'inizio del capitolo 11. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite, e qui c'è il testo, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore. E non abbandonarci alla tentazione. Il Padre Nostro è inserito in un capitolo, il capitolo 11, che non ha solo questo che sviluppa un po' il tema della preghiera, perché poi subito dopo troviamo la parabola dell'amico importuno, quello che appunto va a bussare di notte, e poi anche l'esortazione, sempre nei primi 13 versetti, alla preghiera continua. Quale padre fra di voi se un figlio gli chiede un pesce? Quindi è proprio il contesto della preghiera. Ci dà un po' un quadro di cosa vuol dire per Luca in particolare la preghiera. Soprattutto, forse qualcuno l'ha già detto, non so se avete già seguito qualche approfondimento sul Vangelo di Luca. Luca è uno degli evangelisti che sottolinea molto l'importanza della preghiera. Anche quando Gesù deve scegliere i suoi apostoli, dice salì sul mondo a pregare. In più occasioni Luca ama ripetere appunto l'atteggiamento della preghiera. Stamattina leggevo un piccolo commento alla passione, secondo Luca vedrete che quando Gesù è nell'orto del Getsemane, quindi preso dall'angoscia, in realtà nella versione di Luca si mette in ginocchio e pregava, come se fosse stato in chiesa, tranquillo, no? È chiaro che è l'impressione, è la caratteristica che ci vuole dare Luca, no? Per Luca Gesù riesce a gestire in qualche modo il momento della passione anche attraverso la preghiera, è una preghiera quasi composta, quasi come se fosse tranquillo, no? In un luogo, addirittura in ginocchio, che è l'atto dell'adorazione, della devozione, e che quindi vuole sottolineare un aspetto diverso rispetto a quello di Marco o di Matteo, che invece fa vedere più il dramma di quel momento, di quel momento di angoscia. Però questo solo perché così poi quando sentirete il racconto della passione avrete in mente anche questa attenzione. Si potrebbe pensare che questo pezzettino del Vangelo è opera di Luca, cioè scritto da Luca mettendo insieme i pezzi raccolti qua e là, oppure potrebbe essere anche già qualcosa del, si dice, dello stadio pre-lucano, cioè già scritto prima, che Luca prende e inserisce, e quindi inserisce all'interno della sua narrazione. Vi leggo una definizione della preghiera di Dupont, che è un esegeta francese in gamba, di cui ho letto anche da alcune cose, che ci fa capire che cos'è la preghiera secondo Luca. Dice queste parole, leggo testualmente: egli non vuole fondarla sull'illusione che basti chiedere, che basti chiedere qualsiasi cosa a Dio per essere immancabilmente esauditi. La preghiera, infatti, non deve essere considerata un mezzo per fare pressione su Dio e ottenere che egli ceda dinanzi ai desideri umani. Solo la preghiera che apre l'uomo all'azione dello Spirito, e infatti dopo nell'esortazione alla preghiera dice il Padre che è buono dallo Spirito Santo, no, da qualunque cosa che chiedete, dallo Spirito Santo, poi il resto, un'azione che conforma i desideri di Dio ai desideri di Dio e alle esigenze del suo regno è autentica. Quindi solo la preghiera che apre l'uomo all'azione dello Spirito e trasforma i desideri dell'uomo rispetto ai desideri di Dio e alle esigenze del regno, appunto, è una preghiera autentica. Allora, noi sappiamo che il testo del Padre Nostro ce l'abbiamo in due versioni, c'è naturalmente in questo capitolo nel Vangelo di Luca nel capitolo 11, ma c'è anche nel capitolo 6 di Matteo. E le due versioni sono sovrapponibili, nel senso che tutto quello che scrive Luca è contenuto nella versione di Matteo. Allora poi gli esegeti si sono un po' spaccati un po' la testa per capire, ma allora qual è quella più originaria? Perché in genere quando ci sono dei passi paralleli, il problema è chi è che ha scritto le cose, qual è la versione più antica rispetto. E lì, come quasi sempre, qualcuno dice uno, qualcuno dice l'altro. Ma vi faccio notare, per esempio, la domanda è sempre, siccome Luca, Matteo e anche Marco in parte hanno del materiale in comune, la teoria generale su come si sono formati i Vangeli è quella della fonte Q, cioè una fonte di detti del Signore a cui attingono sia Matteo, Marco e Luca, e poi ognuno di loro tre attinge a del materiale proprio. E siccome appunto la versione di Matteo è un pochettino più lunga rispetto a quella di Luca, si potrebbe dire che magari è un lavoro che ha fatto Matteo, un lavoro redazionale che ha fatto Matteo, oppure potrebbe anche essere un'influenza dell'uso liturgico. Noi sappiamo che i Vangeli, quando sono scritti, diciamo, la comunità cristiana è già da un po' che era lì e che celebrava anche il momento, perlomeno quella che era l'Eucaristia, nel modo con cui sarà stata celebrata allora, che non era sicuramente quello che è il modello che abbiamo noi oggi, però insomma, quindi potrebbe essere anche che l'uso liturgico abbia modificato un po' il testo del Padre Nostro e quindi lo abbia un po' allungato. Secondo alcuni, per esempio Geremias, che è un altro esegeta famoso così, la versione di Luca è più primitiva proprio perché è più lunga, perché tendenzialmente le cose si allungano, non si abbreviano. Invece, andando a vedere le modifiche che sono state fatte proprio sul testo, è più probabile che quella di Matteo sia più primitiva, perché Luca fa degli adattamenti al suo contesto. Voi sapete che Luca scrive per un contesto di persone di origine, lui è greco, e per persone di origine greca, e quindi ha bisogno di adattare un po' i termini e le parole, ma senza scendere nei dettagli, non è importante. Sicuramente tutti gli esegeti sono tranquilli, sicuri sul fatto che il testo del Padre Nostro, comunque sia, nella versione dell'altro o nell'altro, sia proprio proveniente da Gesù. Sembra strano, come dire, perché il resto non l'ha detto Gesù. C'è un filone di studi sui Vangeli che vanno poi a cercare quelli che vengono definiti, in latino credo che sia ipsissima verba Jesus, cioè proprio quelli che siamo proprio sicuri che Gesù ha proprio detto quelle parole lì. Anche lì gli esegeti sono spaccati la testa sul no, questo è sicuramente detto Gesù perché ci sono delle cose tipiche, questo potrebbe non averlo detto, ma è un adattamento, non sono proprio le precise parole, non dico che non sono le parole di Gesù, ma non sono proprio le precise parole che Gesù ha usato, ma diciamo che non è così fondamentale, anche perché appunto su queste questioni così raffini, alla fine gli esegeti si dividono sempre, perché ognuno punta l'attenzione su un particolare piuttosto che su un altro. Sicuramente però siamo tranquilli sul fatto che tutti riconoscono che lo stile tipico di questa preghiera lo fa risalire a Gesù, perché da una parte ha una radice ebraica, quindi si riferisce al Kaddish, che è una preghiera che poi vi leggerò, il testo è scritto proprio sotto, poi ve lo leggo, e anche alla preghiera delle 18 benedizioni, che erano preghiere tipiche del mondo ebraico. E quindi Gesù cosa fa? Attinge alla sua esperienza personale di preghiera, di spiritualità. diceva l'altro giorno, ero da Don Gianni e parlavamo del Decalogo, il testo del Decalogo è stato scritto a partire dal testo degli accordi fra i re e i loro vassalli nel vicino Oriente Antico. E questo potrebbe essere detto, ma allora non c'è niente di originale, è una roba vecchia questa roba qua. No, è il segno, almeno dal mio punto di vista, è che la parola di Dio si incarna dentro la parola degli uomini, la storia degli uomini, la cultura degli uomini. Quindi Gesù ci consegna il Padre Nostro a partire però dalla sua esperienza di uomo ebreo che ha pregato da ebreo per 30 anni con la sua famiglia, con la sinagoga, con i suoi concittadini, insomma. Però sicuramente tipico del Padre Nostro è l'impronta di Gesù, cioè c'è una brevità, quindi non una questione, la concisione, una forza e anche una preghiera che è molto in linea con quello che lui ha annunciato e ha vissuto per tutta la sua vita. Noi sappiamo che l'annuncio del regno di Dio è il centro dell'annuncio, così ci teniamo svegli, l'annuncio del regno di Dio è il centro, no, del messaggio di Gesù. Gesù dice, usa la categoria del regno di Dio appunto per dare, come dire, fare una sintesi del proprio annuncio, e non a caso appunto venga il tuo regno sta al centro della preghiera. Scusa, ti posso solo chiedere una cosa? Se la so. Il punto è non ci indurre in tentazione, secondo me è proprio Non l'ho approfondito, quindi non saprei proprio dire, però sappiamo che appunto la versione nuova è quella che anche ufficialmente dalla prima domenica di avvento del prossimo anno tutti dovremo dire non ci abbandonare alla tentazione, quindi è ufficiale, l'altro giorno l'ha detto Don Gianni, alla tentazione credo, almeno la città dei ragazzi dicono così, non ci abbandonare alla tentazione, però l'importante è che venga modificata, l'importante è che non cadiamo nella tentazione, poi direi che il testo, voglio dire, l'abbiamo detto per 2019 anni, un anno più, un anno in meno, insomma, se l'importante è che non cadiamo in tentazione, non combiniamo tanti pasticci, credo, là, poi no, non lo so, non ho approfondito, bisognerebbe andare a approfondire un po' la parte, anche un po' sul greco così. È abbastanza tosto, sì, ma credo che sia un po' nella visione in cui appunto Dio fa tutto, fa il bene e il male, quindi eventualmente, oppure mettendo insieme pezzi, mi è capitato ieri di sentire una persona mettendo insieme due pezzi di Vangelo che stanno in posti diversi, probabilmente anche di evangelisti diversi, viene fuori una questione teologica interessantissima, per cui il giovane ricco era triste perché doveva lasciare tutti i beni, però la porta stretta del paradiso è quella stretta, allora devi, per entrare in paradiso devi lasciare tutti i beni, però è mettere insieme pezzi di Vangelo colti qua e là per sostenere delle idee un po' strane, e il rischio è un po' sempre di fare così, no? Mettiamo dei pezzi, ci ricordano dei pezzi di Vangelo, oppure ce li hanno messi insieme chi predicava, e non so, sempre di più quando faccio questi lavori per voi, adesso ho avuto anche la gioia di fare qualcosa per Don Gianni, approfondire la parola ci aiuta proprio a, non so come dire, a togliere delle idee strane che ci siamo costruiti, e l'ignoranza della parola di Dio purtroppo è una cosa che mi rattrista tanto, però torniamo al venga il tuo regno, però magari la prossima volta facciamo poi un approfondimento più su, bisogna proprio un po' leggere e studiare delle cose, sull'immediato non è questo, non ho mai studiato niente di particolare, quindi chiedo scusa se non so rispondere. Allora, subito dopo la versione di Luca, ci fermiamo su quella, non ha Padre Nostro ma solo la parola Padre, e subito dopo la parola Padre ha due richieste, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Il fatto che inizia con la parola Padre ci mette subito in una situazione diversa, in un rapporto diverso con chi abbiamo davanti. Quando la richiesta dei discepoli è quella di insegnarci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi. Mi viene sul momento da dire chissà che tipo di preghiera avrà insegnato Giovanni, che aveva in mente un Dio che viene con la scura in mano e è già pronta lì sotto alla radice degli alberi. Ma siccome il Vangelo tace, possiamo stare tranquilli, quello è solo fantavangelo, è meglio che non lo facciamo. Sicuramente abbiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato e che inizia con la parola Abba, Padre. Lì il testo dice Padre, ma noi sappiamo che la parola potrebbe essere Abba. Quindi ci colloca subito in una relazione particolare con il Padre. Questa relazione con il Padre, che noi appunto Gesù ha rivelato un po' per volta nel corso dei suoi anni di predicazione, ma forse anche negli altri 30 anni prima in qualche modo, deve condizionare anche la nostra preghiera, il nostro tipo di preghiera. Forse Potrebbe essere una domanda da porgere, no? Così, chissà se la mia preghiera è una preghiera come vorrebbe Gesù, una preghiera cristiana, una preghiera caratterizzata dal fatto di essere davanti al Padre, così come ce l'ha rivelato Gesù, non come noi ce lo immaginiamo. Ma lo lascio lì, un po' la riflessione mia prima di tutto. Così l'uomo, con questa parola, venga il tuo regno, che fra l'altro in tutto l'Antico Testamento non c'è se non una volta sola. Interessante, sembra che il tema del regno è chiaramente centrale, non sto smentendo quello che ha detto Angelo, ci mancherebbe. Ma la parola, proprio l'espressione, venga il tuo regno, non c'è in tutto l'Antico Testamento se non nel libro della Sapienza, che è un libro recente, scritto credo una trentina, se ricordo bene, una trentina d'anni prima della nascita di Gesù. Naturalmente c'è il riferimento al regno, non è che non c'è, però proprio l'espressione venga il tuo regno c'è soltanto nel Nuovo Testamento e neanche tantissime volte col verbo venire. Il fatto che ci sia subito questo venga il tuo regno pone subito l'uomo di fronte al disegno di Dio, che è quello appunto di instaurare questo regno. Abbiamo visto la volta scorsa chi c'era, Angelo ci ha spiegato bene cos'è l'intenzione del regno, tutte queste, quindi non torno più su questa cosa. Vi faccio notare, vi leggo appunto adesso il Kaddish, che è questa preghiera che si recitava nella sinagoga, penso magari il sabato, quando si faceva un momento di preghiera, per farvi vedere da dove Gesù parte, ma anche che cosa Gesù modifica, se volete. Il testo è questo: Dio, Egli, faccia regnare il suo regno nella nostra vita e nei nostri giorni, e nella vita di tutta la casa di Israele, presto e in un tempo prossimo, e dite Amen. La preghiera del Kaddish pensa al regno come qualcosa che verrà, appunto, faccia regnare, come dire, in futuro, presto, perché vorremmo che successe presto, e in un tempo prossimo. In realtà, invece, venga il tuo regno, l'espressione venga, viene detta da chi già ha fatto esperienza di questo regno, di questa presenza di Gesù. E quindi non è qualcosa di futuro, ma è qualcosa che è già presente, ma che si deve in qualche modo soltanto, come dire, allargare, prendere ancora di più spazio nella vita delle persone. È già qualcosa, è una realtà in atto. Perché è una realtà in atto? Perché c'è Gesù. Sempre nel Vangelo di Luca, se ricordo bene, quando viene fuori la contestazione dei farisei che dicono: tu scacci demoni col dito del demonio, per opera del demonio, quindi una contraddizione. E lui dice: ma se io scaccio i demoni a nome di Belzebù, non ha tanto senso, perché nessuna casa che divide fra se stessa può reggersi così. Ma se io invece lo scaccio con il dito di Dio, che è di nuovo un'altra espressione, naturalmente Dio non avrà delle dita, ma insomma, eccetto che in Brasile da qualche parte abbiamo visto che c'è una montagna che è il dito di Dio. Mi ricordo quando abbiamo fatto il viaggio nel 2002 che ci eravamo fermati in un posto a fare una foto, ecco, non sapevo più dove era, ma insomma, il regno di Dio è già in mezzo a voi. Quindi in realtà, appunto, per Gesù il regno di Dio è già in qualche modo iniziato. Scrive ancora sempre Dupont, quello che avevo citato prima, leggo testualmente: non si può sinceramente desiderare la venuta del regno e il compimento del suo disegno senza confrontarsi fin d'ora e totalmente alle esigenze della sua volontà di Dio. Non è semplicemente una semplice sottomissione a un imperativo morale, ma è comunione alla volontà di salvezza di Dio, che Dio realizzerà alla fine dei tempi. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sono da mettere insieme. E Gesù, quando le propone come preghiera, le pensa come richiesta fatta ai discepoli, che è quella richiesta che abbiamo sentito nel Vangelo: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Quindi questo venga il tuo regno dovrebbe riuscire a smuovere così tanto dentro di noi il desiderio di cercare Dio, in qualche modo dovrebbe essere il motore della nostra preghiera. Per capire questa preghiera dovremo tenere in mente tutta la predicazione di Gesù. Gesù appunto fa nel suo percorso con la gente, annuncia appunto il regno di Dio, chiede che questo regno appunto si allarghi, prenda sempre più dimensioni, ed è il centro, il motore del suo annuncio. Interessante, una cosa che mi ha fatto notare tanto tempo fa, durante forse un corso di esercizio, non mi ricordo, Gesù per tutto il Vangelo chiede ai discepoli: andate e annunciate il regno di Dio. Quando poi, morte e resurrezione, e i discepoli, diciamo nel libro degli Atti, cominciano ad annunciare qualcosa, annunciano la resurrezione di Gesù. Sono stati un po' disubbedienti, perché lui ha detto chiaramente: andate e annunciate il regno di Dio. E loro annunciano, noi annunziamo, San Paolo dice: io annunzio che cosa? Cristo e Cristo crocifisso. Ma vedete che il regno di Dio si identifica con quell'evento di Gesù Cristo. Già subito, già dai primi discepoli, sono Pietro, Paolo, quando abbiamo i discorsi di Pietro, i primi discorsi di Pietro, quello della Pentecoste, poi avanti, man mano, quando incontra Cornelio e gli altri personaggi, ma anche Paolo, magari ci ricordiamo il discorso di Paolo fatto ad Atene, non parla di un regno di Dio, parla di Gesù e della resurrezione. Però tutti gli apostoli, i discepoli, hanno la pretesa di ubbidire al mandato missionario di Gesù, che era quello: andate e annunciate il regno di Dio. Bene, questo dovrebbe più o meno un po' collocare la situazione. Per capire qualcosa di questo termine del regno di Dio, vi propongo di leggere, li cerco io così magari è più facile se li trovo al volo, due oracoli di Isaia, uno preso dal capitolo 52, l'altro dal capitolo iniziale di Isaia, 2, che ha il parallelo nel libro di Michea, ma non è così importante, perché lì si cerca un po' di capire che cosa vuol dire la parola regno di Dio, perché quando si passa da sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, c'è un passaggio, diciamo, di categoria. Quando si parla di sia santificato il tuo nome, siamo nella categoria del culto, rendere santo il nome di Dio. Quando si parla di regno di Dio, ho detto una sciocchezza, rendere santo il nome di Dio, parlare di regno di Dio si usa un'altra categoria, la categoria, se volete, politica, perché appunto, se vi ricordate, ci ricordiamo quello che abbiamo detto, che ha detto Angelo la volta scorsa, effettivamente si fa riferimento al re, che il re di Israele, e a Dio come re. Quindi si passa proprio da una categoria all'altra. Allora, cerco, così lo leggo. Devo aver messo la citazione sbagliata sul testo, però è sul 7 in poi, io ho scritto 5-7, invece probabilmente è successivo perché è quello dopo. Vabbè, lo leggo. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annunzia la pace, del messaggero di buone notizie che annunzia la salvezza, che dice: regna il tuo Dio. Una voce, le sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. Prorompete insieme in canti di gioia rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo braccio santo davanti a tutte le nazioni, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. E poi l'altro brano invece è all'inizio, Isaia 2:4, alla fine dei giorni, tutti brani che probabilmente abbiamo sentito, anche legati probabilmente anche alla liturgia del Natale, dell'Avvento. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo, sulla cima dei monti si innalzerà sopra i colli, adesso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte, sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra i popoli, spezzeranno le loro spade e via. L'oracolo secondo si riferisce al popolo ormai in esilio che sta preparando per il ritorno, perché siamo nel secondo libro, nel libro di Isaia, nella seconda parte, diciamo quella scritta durante l'esilio. Quindi il profeta già intravede il ritorno, quindi la possibilità di un ritorno, diciamo di un secondo esodo se volete, di un ritorno da Babilonia, si ritorna finalmente in Terra Santa, in Palestina, così. per i profeti, in particolare anche per Ezechiele, il fatto che il popolo sia stato deportato è anche il frutto del fatto che appunto il nome di Dio non è più stato santificato, è stato profanato. L'espressione "il mio nome è stato profanato, dimenticato" è legato al fatto appunto che il popolo ha commesso dei peccati e poi è stato portato in esilio. Quindi quando Dio annuncia la salvezza, lo pensa appunto come un tempo di pace, un tempo di bene che ritorna, e lo può dire attraverso questo grido. Dio dice a Sion: regna il tuo Dio. Punto. L'espressione "regno di Dio", oppure "regna il tuo Dio", perché in realtà non c'è "venga il tuo regno", è l'idea di un tempo di pace, di ristabilimento dopo un momento di grossa fatica come è stato quello dell'esilio. Nell'altro brano, nell'altro oracolo invece, vediamo che non c'è la parola re, ma si parla di giudice e di arbitro, ma di per sé la funzione è uguale, no? Appunto, noi sappiamo che prima di avere dei re, Israele ha avuto appunto dei giudici che erano, possiamo definirli, dei re a tempo determinato, non so, con un periodo breve soltanto per l'emergenza, i momenti dell'emergenza. Nel libro dei giudici c'è appunto questo racconto di quando il popolo si trova nella miseria per i propri peccati sempre. Allora grida a Dio, Dio ascolta questo grido e manda un giudice che temporaneamente guida il popolo a questo, per sconfiggere magari i nemici, gli amaleciti, insomma tutti quelli madianiti, tutti quelli che sono lì intorno, che contrastano un po' la vita dei primi tempi del popolo di Israele in Palestina. Il problema è come si realizzerà questa situazione appunto di pace, così come abbiamo visto nei due oracoli, cioè l'annuncio della pace che reca buone notizie, il ritorno del Signore, canti di gioia, le rovine di Gerusalemme che sono di nuovo ricostruite, il Signore ha snodato il suo braccio santo davanti a tutte le nazioni, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio, che in quel contesto naturalmente si intendeva Gerusalemme, cioè il popolo ritorna a Gerusalemme. Noi poi adesso utilizziamo questo brano per parlare, in genere viene letto nel periodo natalizio per dire la salvezza è venuta attraverso l'incarnazione, ma quando è stato scritto si pensava concretamente al ritorno degli ebrei in Palestina dopo questo lungo periodo di schiavitù a Babilonia. Allora come sarà possibile tutto questo? Allora diciamo i teologi del tempo, i rabbini, gli scribi, i farisei si sono occupati di capire come questo avvento del regno di Dio sarebbe stato possibile. Secondo qualcuno era un'opera di Dio, un'unica opera di Dio, quindi l'uomo non doveva fare niente, a un certo punto Dio sarebbe intervenuto. Del resto abbiamo anche, magari ci viene in mente gli oracoli di Ezechiele, quando lui dice i miei pastori hanno lasciato andare allo sbando le pecore, una si è fatta male, l'altra si è ferita, l'altra si è spersa, quella non si è dato da mangiare, faccio che venire io, perché i miei pastori non funzionano, non fanno bene, allora io sarò il pastore. Quindi un intervento diretto di Dio, quello è un'immagine per dire Dio interviene direttamente, non c'è bisogno della mediazione degli uomini. Altri naturalmente invece avevano in mente una rivoluzione di tipo politico, anche ai tempi di Gesù si ricorda appunto momenti di ribellione, e anche dopo Gesù la fine del popolo di Israele è stata segnata da due momenti di rivoluzione violenta, però con l'intenzione di liberarsi dai romani. Mi sembra che l'ultima volta del 135, l'ultimo tentativo di rivolta, dopodiché non abbiamo più nulla. Al tempo di Gesù, ma lo sappiamo benissimo, c'era chi pensava che l'avvento del regno di Dio fosse anche in mano all'impegno degli uomini, cioè bisognava anticipare l'avvento del regno nelle circostanze concrete della propria vita attraverso l'osservanza dei comandamenti. Stiamo parlando dei farisei, naturalmente. L'osservanza dei comandamenti. Siamo talmente abituati a pensare che i farisei erano brutti e cattivi e che avevano trasformato tutte le cose, ma in realtà l'intenzione era buona, l'intenzione era quella di far venire il regno di Dio. E appunto, siccome il regno di Dio è qualcosa di così bello, questo momento di pace, di gioia, di ricostruzione, ma le cose non succedono, perché davanti agli occhi, anzi in quel momento lì c'erano i romani che piantavano giù il piede pesante sul popolo di Israele con tasse, con mancanza di libertà, in qualche modo bisognerà fare, cioè sto lì a aspettare qualcosa succeda. I farisei avevano semplicemente l'intenzione di velocizzare, di facilitare questo avvento del regno, come? Attraverso appunto il rispetto assoluto della legge. E questo poi porta alla critica che Gesù fa, però in qualche modo noi abbiamo nel Vangelo dei racconti in cui dei farisei si avvicinano a Gesù, quindi non erano così lontani. Del resto l'intenzione era buona, l'intenzione era simile, era vicina. Altro elemento interessante è che Gesù, appunto, magari parte da questo contesto profetico anche, di attesa, e non dà mai una definizione di regno di Dio. È interessante, non lo spiega, non dà una definizione, ne parla sempre con immagini, con le famose parabole. Il regno di Dio è come, il regno di Dio è come, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? E questo da una parte ci rende un po' più complicato, però dall'altra apre esattamente alle possibilità di ognuno di noi. Mi sembra che sia sempre un po' così, no? Se noi pensiamo, è detto un po' grossolano, ma alla rigidità, se volete, dei 10 comandamenti rispetto all'apertura delle beatitudini. Lo dico è proprio un modo grossolano di dire le cose, ma solo per farvi notare il contrasto. Apparentemente sembra che i 10 comandamenti siano così: si fa questo, non si fa quell'altro, oppure meglio, non fare questo, non fare questo, non fare quello. Le beatitudini sono invece più aperte, perché ma in realtà forse anche i comandamenti erano già così, ma non entriamo in questo argomento. La proposta di Gesù è quella sempre di mettere in gioco la propria vita. Infatti, quando le persone gli fanno delle domande, i farisei, appunto, diciamo, i suoi avversari, gli fanno delle domande più precise, quasi per metterlo alla stretta, cosa fa? Rimanda la domanda, no? Dicendo: vi ricordate quella volta che chiede, ma con quale autorità fai queste cose? E lui ci pensa, dice: posso fare una domanda io? Come? Ma figura, basta che ci rispondi. Bene, ma allora l'annuncio del Battista veniva dal cielo o veniva dagli uomini? E i farisei, insomma, i suoi avversari, dicono: ma non sappiamo, se diciamo una cosa ci mettiamo nei guai, non sappiamo. E lui dice: beh, sai che c'è, che anch'io non vi rispondo. Ma non perché avevo fatto una, cioè non è un gioco di parole, è una questione seria. Vuol dire che se io non mi decido, è inutile che io faccia delle domande. Fare delle domande per fare delle domande va bene se siamo probabilmente, non so, all'università, in una laurea magna, per fare un po' bella figura col professore prima dell'esame. Ma lì il Vangelo non è mai una questione di discussione, di lambiccamenti mentali, ma di decisione per la vita. Non ho pensato di portarlo oggi, l'altro giorno quando ero da Don Gianni su all'Alma ho letto un pezzettino dell'esortazione di Papa Francesco sulla santità, in cui diceva che il Vangelo è fatto per essere praticato, e cito un po' a memoria, così, è fatto per essere praticato, ci si può anche fermare a ragionare sul Vangelo, ma solo in vista di una vita nuova che deve partire. Adesso più o meno è al numero 109, se avete voglia di andarlo a leggere lo trovate nel testo, nella versione. La stessa cosa funziona anche per il regno di Dio. Non è importante probabilmente avere una definizione precisa, ma è importante deciderci per, quindi che la nostra vita scatti e parta. Se non ha dato una definizione, ci ha dato però, diciamo, delle indicazioni per capirlo meglio. Prima di tutto, l'idea del regno di Dio è che il regno di Dio non si realizzi con la violenza o con la potenza umana. E questo non è già poco, nel senso che se noi guardiamo la nostra storia di 2000 anni di cristianesimo, come dire, è una bella revisione di vita. Però non so se non vale per me quando abbiamo la pretesa di annunciare il Vangelo e dire: ma la cosa migliore sarebbe fare così, chi non prega. Insomma, la violenza a volte è anche, come dire, modalità molto raffinate. Soprattutto lo penso, adesso non l'ho scritto, ma mi viene in mente tutta la questione del difficile rapporto fra Islam e cristianesimo proprio sul tema della violenza. Ho fatto un bellissimo seminario con un mio docente che insegna a Cuneo, Simonini, proprio sul tema della violenza all'interno delle religioni. Se noi avessimo anche soltanto preso in mano, appunto, il Vangelo per capire che il regno di Dio non è una roba che viene con violenza e con la potenza umana, le cose forse sarebbero andate in modo diverso, e ci aiuterebbe anche a leggere e provare a vivere in modo evangelico anche il difficile rapporto con l'Islam, che non è una roba semplice. Però insomma, l'altra indicazione che ci viene da Gesù è che ha una visione universale. Il regno dei cieli è una roba per tutti, e questo ci aiuta a dire che il regno dei cieli non è la Chiesa. La Chiesa è per chi ha scelto il Vangelo e sceglie di vivere la fede del Vangelo come fede testimoniale, cioè io scelgo di entrare in questo gruppo della Chiesa per essere testimone per gli altri, mettiamolo così, un servizio, un po' come è stato il popolo di Israele per tutti gli altri popoli. L'elezione di Israele non è per dire quanto sei bravo e gli altri invece poveretti, ma è: io vorrei che tutti mi conoscessero, come se io dicesse, dico questo perché lo riprendo da da un testo che ho letto per preparare un pezzo della mia tesi, adesso non mi ricordo bene chi fosse l'autore, però non è una mia intuizione, solo perché è troppo bella e non è mia, quindi non voglio come dire, assumere la paternità di una roba che non è mia. Quando Dio sceglie un popolo o una persona, non è per renderlo esclusivo rispetto agli altri, ma perché è il modo più umano per dire io voglio bene a tutti, e avrebbe potuto dire così, far apparire io voglio bene a tutta l'umanità, dice questo autore, ma nessuno probabilmente avrebbe neanche alzato lo sguardo per vedere. Oppure poteva dire, prendo una persona e dice, adesso vai a dire a tutti che io voglio bene a tutti, vanno a dire, forza, corri, corri, ma non so quanti l'avrebbero ascoltato. No, io scelgo te e voglio bene a te, e da come io voglio come va la tua vita, gli altri capiranno. Sii testimone dell'amore che mio verso di te, ma non è una roba esclusiva, è una cosa per gli altri, testimonianza per gli altri. Torniamo alla questione del cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio deve mantenere questa visione universale, cioè per tutti. Se il regno di Dio è fare esperienza della paternità di Dio in qualche modo, ma non voglio dare definizione perché appunto non l'ha fatto Gesù, ci mancherebbe che lo faccio io, deve essere per tutti, quindi fuori e dentro la Chiesa. C'è un brano che Don Duilio ci aveva aiutato degli Atti degli Apostoli, su cui Don Duilio si era fermato, quando a un certo punto si dice che alcune persone si uniscono al gruppo dei 12, dei discepoli, così, altri invece guardavano con ammirazione questo gruppo, ma non osavano entrare, ma chissà come mai, che non volevano, stavano da una parte, ma non è perché erano brutti e cattivi, non entravano, diciamo, tra virgolette, nella Chiesa, ma semplicemente non è richiesto a tutti di entrare nella Chiesa. La Chiesa è il gruppo di quelli chiamati a testimoniare questa esperienza personale dell'amore di Dio verso di me per gli altri, e non tutti devono entrare nella Chiesa, per cui il regno ha un'estensione, se volete, universale, la Chiesa riguarda quel piccolo gruppo di persone che deve fare da lievito o da sale, prendete l'immagine che vi piace di più, il lievito sparisce, io l'ho messo ieri sera nella torta, a parte i grumi che non ho schiacciato bene, il resto è sparito, ma la torta è venuta discretamente bene. Il sale, quando lo mettete nella minestra, fa diventare una minestra buona, se lo dimenticate ve ne accorgete, io che mi dimentico spesso di metterlo, me la mangio poi insipida, pazienza, mi aggiusto, ma non c'è più il sale, non lo trovate più. E la Chiesa dovrebbe funzionare in questo modo, è una testimonianza per il regno, invece è quel albero così grande, no? Che nasce come un semino, ma poi è un albero così grande dove tutti gli uccelli possono, non solo quelli buoni, no? Non solo un tipo di uccelli, quelli con la piuma rosso, verde, e gli altri no. E poi il regno di Dio dovrebbe essere l'oggetto di una attesa ardente, qualcosa che è già lì alle porte, ma che il cristiano attende, dovrebbe muovere la nostra attesa, il nostro desiderio. Facciamo un piccolo salto solo nel... andiamo fin verso le 11? Sì. Vediamo poi magari sì. Se arrivo a un certo punto che finisce un paragrafetto. Nella versione di Matteo, adesso lo prendo così ce l'ho, che è al capitolo 6, che abbiamo detto è un pochettino più lunga, tutta la versione di Luca è contenuta nella versione di Matteo, abbiamo tre richieste concatenate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Venga il tuo regno incastonato in mezzo. Come per dire che quando viene il regno di Dio, il nome di Dio è santificato e la sua volontà è fatta. Come se le due altre richieste, santificato il nome e sia fatta la sua volontà, si concentrassero, si andassero a insistere, a pesare sulla questione del regno. Vi faccio notare solo questa cosa, ho già accennato prima al fatto che quando il cristiano, beh, intanto sono i cristiani che pregano il Padre Nostro, quindi chi ha già fatto in qualche modo esperienza del regno di Dio, ma non è una questione così, una bella idea romantica che ci diciamo. Vi leggo un brano della lettera ai Colossesi, Efesini, Galati, lo sapevo che era dopo, prima o poi imparerò a memoria l'ordine delle... Al quasi all'inizio, dopo i ringraziamenti iniziali, le tre colossesi, che sappiamo probabilmente non è neanche autentica di Paolo, ma già della comunità paolina, ma non è così importante. Leggo un pezzettino prima. Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Paolo ce lo dice in modo chiaro: noi siamo già dentro il regno, quindi non è solo qualcosa di futuro, qualcosa che noi aspettiamo per il futuro. Io credo che dire che il regno di Dio è il paradiso sia un po' fuorviante, perché ci porta a qualcosa che è fuori da noi, lontano da noi, e soprattutto su cui non è che possiamo fare tanto, nel senso che se è il paradiso, poi non saremo, cioè eventualmente c'è il giudizio, no? La categoria del giudizio che ci dirà se possiamo entrare o no, ma non vorrei entrare in questo particolare. In realtà la parola di Dio ci dice che noi siamo già dentro questo regno, nella misura in cui siamo appunto passati dalle tenebre, cioè Lui ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del figlio del suo amore. Quindi nella misura in cui siamo aderenti a Gesù, siamo già dentro il suo regno. Non è qualcosa che riguarda solo il futuro. È sempre questo difficile rapporto fra il futuro e la pienezza, il compimento, e la realtà che c'è già adesso ed è iniziata. Ed è iniziata non in modo che... Il commento di Maggione mi è piaciuto, perché non è qualcosa che è iniziata e poi, come dire, sale come se fosse una quotazione in borsa, no? Va fino al massimo, fino al compimento. C'è un inizio, che è l'inizio di Gesù, in quel modo. Dopodiché noi poco per volta cerchiamo di viverlo così. L'altra volta mi sembra che Angelo, parlando del dopo morte, dice: non può finire così. E Dio dice: non può finire in questo modo, deve esserci la pienezza. Poi quello che ci sarà, cosa vuol dire questa pienezza, io direi che lo lasciamo ai tempi escatologici, cioè alla fine. Però noi possiamo già, abbiamo la garanzia di un inizio, c'è già qualcosa che inizia, c'è l'evento di Gesù, quella storia lì, quei 30 anni lì. E prima ho accennato un po', no? Sicuramente Gesù ha fatto per 30 anni, dato inizio al regno attraverso la sua predicazione, ma siccome ho dovuto approfondire un po' la spiritualità, quella che si chiama la spiritualità di Nazareth, per scrivere appunto le pagine della mia tesi sulla figura di Charles de Foucault, era innamorato non tanto del Vangelo, che parla quindi dei 3 anni di vita pubblica, diciamo così, per usare un termine che ci è familiare, ma lui era innamorato dei 30 anni precedenti. Cioè Gesù, cioè, economicamente non funziona questa roba, cioè 30 rispetto a 3, io avrei detto: ma annuncio per 30 anni e 3 anni faccio il falegname, no? Se devo annunciare una roba fondamentale come il regno di Dio e l'amore, il perdono, la misericordia. E invece Gesù pensa che va bene così. Per 30 anni ha annunciato il regno di Dio facendo il falegname. E questo scombina un po' i nostri pensieri. Ed è lì c'era il regno di Dio, non solo dopo. Per Charles de Foucault è chiaro, quei 30 anni lì non sono un tempo di preparazione persa, sono già il figlio di Dio che entra nella vita delle persone. Tanto così, in modo così normale, umano, che quando poi comincia a fare il predicatore la gente si stupisce, dice: ma quello lì non è il falegname? L'abbiamo conosciuti tutti, sappiamo che viene da lì, conosciamo la sua famiglia, conosciamo i fratelli, le sorelle, adesso fate queste cose strane. Però lo stile è proprio quello. C'è un bel libro o un film di un autore giapponese, tanto per rimanere in tema del Giappone, dove però il Giappone non è così bello come quello che vedete, che vedono i turisti, perché piove sempre in quel film lì e nel libro anche, in cui c'è proprio questa discussione complessa. Il libro è probabilmente anche un po' angosciante, in realtà è ambientato nel 1500 e parla dei secondi missionari in Giappone. C'è una prima ondata di missionari probabilmente nel 1500 con Francesco Saverio, e poi una seconda missione più tardi dei gesuiti, allora forse nel 1700, ma non è così importante le date, in seguito a un periodo di persecuzione che forse i romani erano proprio dei giocherelloni rispetto a quello che hanno fatto i giapponesi ai primi cristiani. E lì c'è tutto il tema del annunciare il Vangelo o il regno di Dio attraverso appunto la predicazione ufficiale, facendo le liturgie, e chiedendo la conversione delle persone che rischiano di morire, vengono uccise tutte, ma proprio uccisi in modo anche crudelissimi così. Oppure a un certo punto uno dei missionari, che credo si chiami Padre Ferreira, credo che siano cose storiche, il romanzo è un romanzo, però i fondamenti sono storici, decide di annunciare il Vangelo vivendo tranquillamente addirittura sposandosi e stando alla casa dei mandarini giapponesi, senza annunciare esplicitamente nulla, semplicemente vivendo l'accoglienza, l'insegnamento, così. E c'è questo confronto fra il missionario giovane, pieno di furore, che vorrebbe parlare di Gesù Cristo e fare l'Eucaristia e confessare alle persone, così, e lui che dice: non so, io ho trovato questa strada, apparentemente sembra che abbia abiurato, ma forse il Vangelo, se annuncia, potrebbe anche annunciare così. Ve lo metto lì, se avete voglia di regalarvi un libro, il libro si chiama Silence, Silenzio, c'è anche il film è angosciante, il libro è, sì, l'ho visto da poco, l'hanno ridato, il film è proprio angosciante, l'ho trovato più ancora del libro, forse il libro, siccome ho dovuto leggerlo perché devo preparare un esame, non ero così, e di quel libro lì, del film, ma non so se nel libro, a un certo punto, in una delle discussioni fra i due missionari, uno dice: ma io prego perché il Dio venga, perché, e l'altro dice: si prega pure ma con gli occhi aperti, cioè nel senso, guarda il mondo, cosa succede, valuta bene. Comunque, ho un po' allargato il discorso. Torniamo a noi. La comunità dei credenti, dei primi cristiani, ha bene in mente che la regalità di Dio, il regno di Dio, non ha niente a che fare con i regni umani. Per farvi capire questa cosa, vi leggo un brano del libro di Samuele, che credo che Giovanni abbia letto anche, me lo ricordo, non so, lo abbino molto a qualche volta che Giovanni l'abbia letto in qualche occasione, non saprei bene quando. Quando spiega, Samuele 8:11, questo è 9, dicevo appunto che quando la comunità di credenti o Gesù, come volete, usa la categoria del regno di Dio, ha bene in mente che la regalità di Dio non ha niente a che fare con la regalità dei re di questa terra. E per capire questa cosa qua vi leggo appunto il brano del primo libro di Samuele, dove appunto c'è la scenetta in cui il popolo di Israele dice, ma dice Samuele, che in quel momento era, diciamo, il condottiero, il giudice meglio, e anche profeta di Israele, dice: ma noi vorremmo un re come tutti gli altri. Lui si arrabbia un po', Dio si arrabbia un po', dice: vabbè, dai, fai che darglielo, tanto, come ne aveva già accennato Angelo l'altra volta. Però Dio dice, o Samuele attraverso la sua mente, dice: io vi spiego come funzionano poi i re di questa terra. E al versetto 11 dice: Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re, e disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi, apprestare armi per le sue battaglie, attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri uliveti più belli, li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori, i vostri asini, e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre gregge e su voi stessi, e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Così imparate, tanto che... Allora, Israele ha bene in mente cosa voleva dire avere un re. Io non oso immaginare la costruzione del Tempio, quanti sacrifici sia costata. Noi abbiamo questo racconto bello, anche romantico, soprattutto nella versione del libro delle Cronache, in cui Salomone costruisce questo tempio e poi il palazzo vicino, e poi c'è sicuramente la preghiera di Salomone che c'è nel libro delle Cronache, è bellissima. Dio, quando capiterà che un uomo avrà peccato, ma si rivolgerà verso questo luogo santo e chiederà perdono, tu guarda e perdona. E poi capiterà che il popolo sarà allontanato, naturalmente scritto dopo l'esilio, quindi, come dire, cosa già successa, e dal luogo del suo esilio guarderà questo luogo e tu guarda e perdona. Bellissima questa cosa, però immagino che dal punto di vista invece materiale sia costato tantissimo. Vedete che l'ho letto, ho sottolineato in modo particolare: prenderà il re di questa terra, prendono le cose migliori, le figlie per farne profumiere, i greggi, gli armenti. È chiaro che invece quando Gesù parla di regno di Dio non ha in mente questo, e così anche la comunità, ma il Dio che regna, regna nella misura in cui dà, non prende, consegna, dà energie nuove, dà beni, energie per che la vita cresca. In questo senso la qualità del regno è una qualità di servizio di Dio alla vita dell'uomo. Del resto, se abbiamo dei dubbi, Gesù ce lo dice esplicitamente: non sono venuto per farmi servire, ma per servire. Da questo punto di vista, allora, cerco ancora un brano di Isaia. Si sta parlando, siamo al capitolo 60 di Isaia, quindi siamo al, si chiamerebbe Trito Isaia, tanto per usare un termine tecnico, cioè l'ultimo, il terzo Isaia, cioè quello che scrive dopo l'esilio, quindi si sta ricostruendo Gerusalemme. Leggo solo un pezzettino un pochettino più lungo, di nuovo è un brano, è quello che viene letto alla liturgia dell'Epifania. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Quindi, diciamo, la ricostruzione. Così. Questa luce di Gerusalemme ricostruita, cosa fa? Attira tutte le persone. Cammineranno le gente alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro sono radunati, si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stolo di cammelli, e qui c'è il ricordo dell'Epifania. Se vedete, il movimento è tutti vanno a Gerusalemme. In realtà, se il regno di Dio, così come l'abbiamo visto nelle parole, nei gesti e nella vita di Gesù, è un movimento esattamente al contrario, cioè Dio che dà vita alle persone, allora il movimento sarà esattamente al contrario, cioè i discepoli, quelli che dicevo prima, la Chiesa, cioè quegli uomini e quelle donne che hanno scelto di farsi testimoni di quell'amore lì, invece di aspettare che qualcuno venga lì a portargli qualcosa, andranno riempiti di questa gioia, di questa speranza, di questo annuncio di vita nuova, andranno a portare, a seminare, a disseminare questo annuncio. Quindi il movimento sarà esattamente il contrario, non tutti che vanno verso Gerusalemme, ma dal centro, che potremmo dire dal Vangelo, verso tutto il mondo. Guardo solo. Sì. Due cose piccoline ancora. Dio, parlare del regno di Dio e parlare della paternità di Dio, da un certo punto di vista, è la stessa cosa. Quindi, noi riconosciamo Dio come re nella misura in cui lo conosciamo padre. Il padre è quello che dà la vita ai suoi figli. Chi di voi ha fatto l'esperienza della paternità o della maternità è uguale, ma chi di noi non ha fatto l'esperienza in qualche modo della paternità o della maternità quando si è occupato di qualcuno? Delle persone, di bambini, dei nipoti, chi magari insegna, non so, io non ho figli miei direttamente, ma quante volte ho sperimentato l'esperienza della maternità con i bambini con cui ho lavorato a scuola, ma soprattutto come educatore. Allora, dire che parlare del regno di Dio, parlare di paternità di Dio, praticamente coincidono, nel senso che questo però vuole anche dire che se Dio è padre, i discepoli sono fratelli, e quindi dire venga il tuo regno e anche mi impegno a vivere da fratello con le persone intorno a me. L'altra sottolineatura che ancora vi propongo: per entrare nel regno di Dio, Gesù dice, per poter entrare nel regno dovete diventare come bambini. Io, ma lo sapete, forse l'ho già citato altre volte, ho sempre questi incontri o scontri / scontri con i fratelli testimoni di Geova che vengono spesso a casa mia, e l'altro, dico questo così sollevo un po', faccio, l'altro giorno è venuta una signora di una certa età e si insisteva su una serie di robe, insomma, e a un certo punto dice: vabbè, ma Dio, Gesù ha detto che appunto per capire il regno di Dio bisogna essere bambini, quindi non bisogna studiare, non bisogna approfondire le cose, perché i bambini sono quelli che sono semplici, spontanei, così. E gli ho detto: ma strano, perché uno, se dice di amare la Bibbia, dovrebbe conoscere il greco, conoscere un po' l'ebraico, almeno insomma approfondire gli studi così e confrontarsi con gli altri. Dice: no, Gesù l'ha detto, bisogna essere come bambini. Ecco. Ringraziamo che ha detto che bisogna essere come bambini, ma non dire bambini che non sanno niente, no? I bambini appunto non sanno niente ancora. In realtà, nel contesto in cui Gesù parla appunto di diventare come bambini, i bambini erano considerati un po', come dire, lo scarto, non erano ancora neanche considerati esseri umani veri e propri. Mi ricordo che avevo letto un libro sulla figura del bambino nell'arco del tempo. Se noi guardiamo le immagini anche del Medioevo, quindi siamo già molto dopo il tempo di Gesù, i bambini sono vestiti esattamente come gli adulti, perlomeno nella rappresentazione. Cosa vuol dire? Che semplicemente per fino agli anni recenti, l'Ottocento, così, quando si comincia a considerare il bambino come bambino vero e proprio, il bambino era semplicemente un adulto che aveva delle cose in meno e quindi non valeva ancora la pena di ascoltarlo. Gesù invece ci propone appunto di entrare nel regno attraverso questa immagine del farci come bambini, nel senso che il bambino non ha niente, quindi la proposta è entra nel regno di Dio per i discepoli come colui che rinuncia, non come quello che ha soprattutto alle pretese e ai sogni ambiziosi. Del resto appunto Matteo dice, ci vado a vedere, per non dire beati i poveri in spirito, nelle beatitudini al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, cioè è il commento che fa Maggi, è proprio quello di dire chi sceglie di farsi povero può entrare nel regno di Dio e può annunciare il regno di Dio. Non è una questione di essere poveri, di avere pochi soldi in banca, ma chi sceglie. Quindi diventare come bambini non è appunto essere spontanei, ammesso che i bambini siano spontanei, sì, ma soprattutto chi sceglie di rinunciare ai sogni ambiziosi. L'ultima cosa che vi faccio ancora notare, poi così ci riposiamo un attimino, è che la categoria del regno di Dio ci aiuta anche a mettere in evidenza che, siccome una categoria politica, non può andare a braccetto con altri regni, usando sempre la categoria politica. Forse oggi questa cosa qua non funziona più tanto, nel senso che noi abbiamo imparato a distinguere l'aspetto, diciamo, religioso dall'aspetto politico, anche se forse sarebbe interessante che l'aspetto politico come servizio per la comunità potesse abbeverarsi alla logica del Vangelo, ma lasciamo lì. Pensando soprattutto ai primi cristiani, la logica del parlare di noi di Dio voleva anche dire rifiutare qualunque altra logica di governo, e quindi anche il governo romano. Quindi cosa succede? Che la categoria del regno di Dio diventa qualcosa di pericoloso per i primi cristiani, perché porterà poi a quello che abbiamo studiato tutti, alle persecuzioni, perché nel momento in cui la categoria politica era onnicomprensiva, per cui l'imperatore non era solo il capo politico ma era anche il capo in assoluto, quindi doveva essere adorato, così nell'antichità il faraone, ma anche non so, i re persiani, non so, penso anche nelle civiltà precolombiane, gli Inca, dove appunto il sovrano aveva anche poi un aspetto sacrale, questa roba qua così. Quindi la categoria del regno di Dio diventa anche una forma di rifiuto degli alti governi, ma anche una forma di rischio per i cristiani. Del resto Maggi dice appunto la continuazione del Padre Nostro va nella direzione appunto del pane quotidiano, cioè di tutte quelle cose che servono poi ai cristiani per resistere davanti a questo mettersi in contrasto. Per noi oggi probabilmente parlare del regno di Dio, vivere la spiritualità cristiana, non vuol dire trovarsi in contrasto con il nostro governo. Qui sappiamo che non è dappertutto così, non è scontato che i cristiani possano fare i cristiani serenamente, tranquillamente dappertutto nel mondo, così come non è scontato per i musulmani essere musulmani tranquilli nel mondo, però insomma non dappertutto l'opzione religiosa non implica poi una forma in qualche modo di persecuzione, sotto aspetti diversi. Poi è qualcosa che forse ci tocca di meno perché non lo viviamo qua in Italia, in Piemonte, in Europa, però insomma in alcuni paesi del mondo questa situazione c'è. Appunto ogni tanto sentiamo le questioni in Nigeria, in altri paesi, oppure anche in Asia. Io direi che per adesso possiamo riposarci un attimo e poi riprendiamo dopo. Facciamo un quarto d'ora. Sì. L'altra volta vi ho dato un discorso, una meditazione di Papa Francesco sul venga il regno di Dio, no? Sta facendo il commento al Padre Nostro in questo periodo. Vi dicevo anche che contrariamente a quello che succede nelle nostre chiese, dove del regno di Dio non si parla quasi mai, almeno io ho questa sensazione, Papa Francesco ne parla in continuazione. Io ho concentrato alcuni passi di Papa Francesco in 15 pentadecalogo, in 15 punti. Ve l'ho portato a casa, ve lo leggete. Mentre andiamo a prendere il caffè che Beatrice e Arianna ci hanno preparato. Grazie Gian Piero. Grazie a voi che avete pazienza di ascoltare. Preferisci l'arancione? Non piove più.